VIP, DJ Echo on the wheels. MRBIB, questo è Radio XXX. MRBIB, DJ Echo on the wheels. MRBIB, questo è Radio XXX. MRBIB, DJ Echo on the wheels. MRBIB, questo è Radio XXX. Mr. Beep spinge dentro ai mixtape. Tu vuoi fare l'MC ma fai solo mix gay. XXX e Binemi chiama, la mia voce arriva per quanto è lontana. MRBIB e DJ Echo on the wheels. MRBIB e questa è Radio XXX. MRBIB e DJ Echo on the wheels. MRBIB e questa è Radio XXX. Okay.